Stress, tensione, malessere, stanchezza. Ritrova armonia e vitalità nell'acqua delle Terme Antica Querciolaia. Parco piscine, cure e trattamenti termali, centro benessere e medicina specialistica. A Rapolano, in terra di Siena. Terme Antica Querciolaia, rinascere dall'acqua. Scopri quanto siamo vicini su www.termeacu.it. Radio Rock, Rocket Queen presentano sabato 5 febbraio Biretta Style Special Event Back to the 90s. Due sale, 4 DJs. Sala 1, DJ Armandino e DJ Skunk con selezioni rock e hard rock 90s, metal e new metal. Sala 2, speciale Ghetto Floor con DJ Noised e DJ Poison. Selezioni metal, new metal, hardcore e metal hardcore. Ed inoltre in sala 3 al piano terra Pizzica e Taranta con le Tarantole in concerto e discoteca Happy Revival e Italian Style con DJ Oreste. Ingresso 10 euro e birra gratis tutta la notte al Cube in via di Portonaccio 212. Concrete, boy, but lava juice, watch ya, chuck it, boom, you know what I mean, me dip out a whole 14, know what I mean, and reload my next magazine, know what I mean, and wounded them housing scheme, know what I mean, the for them I move sideways and lean, know what I mean, can't come about when man the E, know what I mean, we not like them colonial regime, know what I mean, Ethiopian not like Mussolini, know what I mean, me queen of Iraq and come in, know what I mean, and jump on me big trampoline, know what I mean, and boost up our self-esteem, know what I mean. No for one the home and kitchen so clean, I mean. And which recipe that I steam, I mean. The lyrics them a flow like a stream, I mean. Make you feel like you're living in a dream, I mean. It come to the crap, man, I cream, I mean. It come to discipline, man, I dean, I mean. Me tougher than a home and limousine, I mean. We step in, we fresh and we clean, I mean. I burn the stink and stop green, I mean. Better listen up, careful and keen, I mean. I put one as a rock and come in. We celebrate like I finished probation, boy, boy. Not head with no chaser, boy, boy. From the mouth, I can spit out a razor, boy, boy. Open up your facial like your boy, boy. In his prime, eat food, dinner time. Junior gong, pass the Guinness. Handle business, black velvet, slippers. Females never bid us, farewell, they with us. Cause we arrive on a scene just like a high beam, nah, I mean. Don't let us have to make the nine scream, nah, I mean. At your racial policing regime, nah, I mean. Spiritual well like an Elohim, nah, I mean. In a casino or yacht, wherever I'm seen, my brothers and sisters are never forgotten, I mean. Don't wanna hear another soldier drop, nah, I mean. Another dope addict is shot with the morphine, and feds are indicting my block, nah, I mean. They're wearing reds from their shoes to their top, nah, I mean. I'm wishing that all the violence would stop, nah, I mean. When I like this song, I'm sorry, nah, I mean. And some boys stop like ice cream, nah, I mean. From my boy, make the feds intervene, nah, I mean. Wishing I were gonna take him shopping, nah, I mean. Parabellum, them are each up in a spleen, nah, I mean. In a Queen's gunman reign supreme, nah, I mean. Kingstonians are real blood fiends, nah, I mean. The world is a big crime scene, nah, I mean. Yo, yo, Mr. President, yo, Mr. President, what you doing for my resident? What you doing with my resident? Yo, Mr. Minister, Mr. Minister, why you being sinister? Hey, yo, yo, Mr. President, yo, Mr. President, what you doing for my resident? What you doing with my resident? Yo, Mr. Minister, Mr. Minister, why you being sinister? Some man in a real buffalo in a Rastafari regime. Bush bungalow where me dwell with my queen. Trash put the bundung in a camouflage green. Look for them where can't go the places we've been. Look for them where can't see the sights where we've seen. That's why them face all a twist up and a lean, I mean. They better mind we kick it off clean, I mean. Man a gangster just like Yamdeen. That mean them can't serve Congo jet boats up in, I mean. A who you want come in can be, I mean. Attorney up in rock and come in, I mean. Me pocket them green like Sperling, I mean. Me regular fly out and fly in, I mean. This year don't park like sardine, I mean. Can't guess what speed up as the whole need caffeine. Run out of retin antihistamine. Wash over golem from me like Listerine. You think I lie way better than Al Pacino, I mean. It's genocide, it's a genocide. It's a genocide, it's a genocide. Fifth floor cooking raw, had my own supply. Cause of capitalist ways, that was back in the days. So now I do rap and it pays. Allora, gli ultimi... ultimi due brani che ho trasmesso sono stati, a parte questo di Nas e Damian Marley, prima c'era Alan Oldsworth con Letters to Marquee, prima ancora Gentle Giant, Nothing at All. Naturalmente la tracklist, seppur breve di oggi, perché abbiamo trasmesso in pratica un'ora e cinquanta, la posporrò, la inserirò nel mio blog. Detto questo, direi di iniziare il nostro spazio, fantastico spazio dedicato al cinema autografo. Questa è Cellulite e Celluloide. Buonasera Gabriele Vasquez, come va? Buonasera, tutto bene. Passata l'influenza? Mamma mia, lasciamo stare. O era solamente così? Sai, non posso venire, sto male. E sottofondo mare. Ho visto le foto postate su Facebook che stava le foto erano a ballare il bunga bunga. Malattia 01 02 2011, sono arrivato a 39,7, sembrava Trainspotting con i corridoi che si allungano. 39,7? Sì, guarda, è stata veramente una cosa delirante. All'ombra di qualche palma, 39,7. Va così. Così? Esatto. Mi sento molto Elvis Presley. Sei Elvis Presley. Vedo il ciuffo, sì. Esatto. Allora, due settimane di assenza, ne sono accadute di cose nel cinema. Succede di tutto. Per esempio, si è verificata un caso che, non so, forse non capitava da 20 anni, 25 anni. Qualcosa? Almeno io a memoria mia non lo ricordo, ma sarà successo prima o poi. I primi tre film del box office italiano sono italiani. Ma va? Una cosa, un caso incredibile. Ma neanche sotto Natale con i cinepanettoni, eccetera. I primi tre italiani non capitava da si sa quanto. Qualunque mente, immaturi e che bella giornata. Esatto, per la seconda settimana di seguito, perché settimana scorsa pure era così, e sono due già due settimane. Attenzione, questa settimana. Beh, però aspetta, c'è da dire che anche i film internazionali, parliamo di robetta, proprio robetta. È verissimo. Infatti, questa settimana esce Femmine contro maschi, che andrà sicuramente al primo posto. E potrebbero diventare quattro nelle prime quattro posizioni. Vediamo che succede con gli altri titoli. Beh, i fantastici viaggi di Gulliver. Potrebbe, però non si sa mai. Perché in fondo quello che dovrebbe uscire dalla classifica sarebbe Checco Zalone, e quello continua ad andare. Insomma, non è detto proprio. Però vediamo. Anche Green Hornet doveva scalzare qualcuno dei tre e non ce l'ha fatta. Beh, non è un gran film, diciamo. Però molto carino, era atteso, ce la poteva fare, ce la poteva anche. Sì, il discorso del re, andrà agli Oscar e prenderà tutto e non ce l'ha fatta. Non lo so, è incassato una beata niente il discorso del re. Esatto, non ce l'ha fatta per niente. È un momento molto particolare questo per il cinema italiano, che sta incassando veramente tanto. Ma secondo te Il punto della situazione, facciamolo questo punto, perché tutti parlano di questo cinema italiano che rinasce, c'è una grande voglia realtà, di vedere. In realtà chiaramente non rinasce, cioè, è un momento, la solita commedia, economicamente molto forte, ed è questo che potrebbe teoricamente portare una rinascita, al momento in cui si accumulano dei capitali che possono essere reinvestiti in progetti interessanti, nel momento in cui ci sono delle competenze, cioè negli ultimi 10 anni sono emersi dei registi giovani interessantissimi, per cui la competenza c'è, i soldi adesso cominciano ad arrivare, perché questi incassi arrivano, sono tutti di società di produzione diverse, però italiane, si può creare sicuramente un movimento positivo. Cioè tu dici le case cinematografiche italiane hanno incassato danari, quindi possono rischiare su qualche film. Esatto. Quello che è successo. Stessa cosa che fanno le case discografiche. Il motivo per il quale in questo momento proprio si sono concentrate una serie di incassi alti, che in alcuni casi magari potevano capitare anche in passato, del tipo Antonio Albanese. Ci sono sempre stati gli Antonio Albanese che arrivavano, facevano un film e incassavano. Antonio Albanese non ha mai incassato tanto. No, per dire, però questo tipo di personalità che è già famosa fa un film e incassa molto. È una cosa che è già capitato. I casi strani sono i Checco Zalone, quelli che arrivano da zero. Sono gli Immaturi, che è un film anche brutto, però che va benissimo. Perché si è creato con i disastri di politica dello spettacolo degli ultimi anni, si è creata una situazione di indigenza tale, di problematica tale, anche di paura in molte società di produzione. Quella di rischiare, dici tu. Esatto, che hanno fatto sì che per diversi anni si sono promosse individualità come Paolo Genovese. Paolo Genovese è un regista di commedie che viene da, cioè che a cui vengono affidati questo tipo di progetti, a lui e ad altri, perché è qualcuno che garantisce un certo incasso, che ha una certa idea di cinema e che ha studiato, si è applicato, si è specializzato nell'inseguire i gusti del pubblico, che è qualcosa che per tanti anni un cinema molto assistito non ha avuto più bisogno di fare. Per cui non si inseguivano i gusti del pubblico e succedeva che non si produceva roba che incassava e non si produceva neanche roba interessante, sai, quei film che vedono in due, ah ma che belli, no, neanche quelli producevano, diciamo, i dessè. Esatto, erano orrendi anche quelli dessè negli ultimi anni. Mentre invece un po' di ottica sul pubblico male non può fare. Certo, è chiaro che questo poi porta film, anche film brutti, succede. Però nel grande mucchio c'è tutto, c'è il brutto e c'è il bello. E avere, una, avere varietà è meglio che non averla. Quindi insomma io tutto sommato, anche se poi non apprezzo molti di questi film che vanno in testa al botteghino, sono contento di un, di, dei forti incassi italiani. E con sfacciato ottimismo penso che non possano che portar bene. E non solo, adesso mi azzardo anche a dire, molti dei guai che non sono mai buoni, però dei guai politici relativamente alla parte del cinema, i fondi per lo spettacolo, le agevolazioni fiscali, forse non sono venuti per nuocere, un po' di difficoltà. È chiaro che è sempre meglio spiegare di non avere difficoltà, però un po' di difficoltà ogni tanto ti fanno aguzzare anche l'ingegno, ti costringono ad affrontare alcuni problemi che forse nella bambagia non avresti affrontato. Quindi tu dici magari che questi film non ci sarebbero stati? No, se io sono tranquillo, non ho un'ansia forte di incassare, è chiaro che non vado incontro allo spettatore e magari poi effettivamente incasso meno. E un discorso del genere è giustificabile unicamente se te poi effettivamente fai un cinema di grande qualità, e allora è l'unico motivo per cui posso giustificarlo. Ma visto che questo non capitava, e anzi è cominciato a capitare... Vabbè, da non quando... capitava perché? Perché non c'erano grandi registi, perché non c'erano grandi idee. Non c'erano grandi registi, ma forse non erano spronati. Alla fine i grandi periodi di creatività, le grandi movimenti, ma non solo poi del cinema, nascono dalle costrizioni, quando devi fare un film per il regime, perché il regime ha detto che deve essere così, e te ti batti contro le costrizioni che hai e realizzi un grandissimo film. Capita così. Quando la gente è totalmente libera, solitamente è difficile che faccia cose ottime. E come dice Orson Welles, in Svizzera solo orologi e cucù, e in Italia sotto i Borgia il Rinascimento. Bella questa citazione, Sì, che poi è sbagliata storicamente. Lo diceva nel Terzo Uomo. Sì, nel Terzo che Uomo. Non è perché l'orologio a cucù non è stato inventato in Svizzera. Vallanzasca, ti è piaciuto? Sì, a me è piaciuto abbastanza. Non sono un pazzo di Vallanzasca, ma mi è piaciuto abbastanza. Concordo. Di tutti questi, perché poi c'è anche Vallanzasca e basta. Di italiani? Basta. Sì, mi sembra di sì, esatto. Sono 4 su 10. Perché poi tutto il resto delle uscite americane chiaramente hanno giustamente monopolizzato le altre posizioni. Sì, che non Tron sono Legacy ha preso poco, insomma. Sì, non sono andati benissimo. Gli americani stanno un po', stanno battendo la fiacca, non arrivano bombone. Guardando avanti a quest'anno, se immaginiamo cosa dovrebbe succedere col procedere dell'anno, o il 2011 che è appena iniziato, ma sappiamo che film arriveranno. Beh, c'è Sanctum 3D, Thor, Transformers 3. Pensavo agli italiani. I film italiani che devono arrivare. Scusa. Si rischia quest'anno di fare un record senza precedenti di prodotto interno, di arrivare al 40% dell'incasso totale fatto dai film italiani. Quali altri film potrebbero saltare? Adesso arriva Manuale d'amore con Robert De Niro. Succederà allo sfacelo. Il terzo Manuale d'amore. Esatto. Ah, è vero. Già i Manuali d'amore vanno molto bene. È una serie fortunatissima che incassa tantissimo. Quindi la gente è spronata a tornare a vederlo. In più, chiaramente ci sarà Robert De Niro. Vado pure io. Insomma, per cui c'è anche Monica Bellucci. Quindi anche Faster andrà a vederlo. No, siamo proprio tutti, ci siamo. Dovrebbe, vabbè. Lo fa. Dicevo, qualsiasi cosa sia lo fa. Rischiamo di arrivare al 40%, per avere una quota di prodotto italiano alla fine dell'anno del 40%, che sarebbe un record senza precedenti. E a livello europeo una quota francese. La quota francese è la quota più alta in assoluto, sì, perché i francesi vanno a vedere molti film francesi. Tantissimo. E lo Stato poi obbliga le produzioni francesi a fare film. Insomma, c'è tutto un sistema anche statale che difende il prodotto interno, cosa tipica francese, certo. Per cui hanno una quota fuori dalla grazia di Dio. io. Noi solitamente negli ultimi anni abbiamo avuto una quota italiana molto buona, che era del 30%, cioè il 30% dell'incasso di un anno di cinema la fanno i film italiani. No, la maggior parte dell'incasso era quello a Natale. E sicuramente. Diciamo. Però insomma, c'erano anche delle belle cose, iniezioni a metà anno. Se tu immagini che la Spagna fa il 10% del proprio cinema nazionale, l'Inghilterra pure 10-15, sono percentuali infinitamente inferiori alle nostre. Perché pure noi che ne diciamo, diciamo che lo spettatore italiano ha un certo amore per il cinema italiano, i nostri prodotti ci piacciono solitamente, mentre invece all'estero ci piacciono perché i prodotti, cioè i registi fanno i film che piacciono agli italiani sicuramente. Però allora mettiamolo così: all'estero non hanno questo nazionalismo come noi. Noi non arriviamo all'elo francese, ma all'estero non stanno all'elo nostro, ecco. Per cui quest'anno potremmo arrivare a una quota incredibile. Quale potrebbe essere il film americano che, insomma, che potrebbe fare il colpaccio secondo te tra Sanctum 3D, Thor, Transformer 3, Fast Five, Pirati dei Caraibi? Allora sicuramente sono Transformers e Pirati dei Caraibi. Sanctum non andrà bene, il film, nonostante sia il nuovo film di James Cameron dopo Avatar, un altro film in 3D, però è un film molto più particolare, molto più ricercato, sugli abissi marini. Non sarà assolutamente un grande incasso. Lo saranno Transformers 3, Pirati dei Caraibi, e lo saranno sicuramente perché invaderanno le sale. Sono quei film che non possono andare male perché escono in 800 sale. Quindi a un certo punto, cioè, quelli dove bisogna andare a vedere. Quindi sicuramente saranno dei grossi incassi. Il dubbio sarà Thor. Thor sarà un grande interrogativo. Abbiamo visto il trailer la scorsa settimana, il primo trailer, veramente molto bello. C'eri tu, Livio? No, ma io sono un fan di vecchia data, quindi lo sto aspettando con ansia. Molto molto bello, il trailer è stupendo. Kenneth Branagh, per stato così all'action movie fumettoso, sono davvero curioso di sapere che cosa potrà tirare fuori. Ma io tra l'altro invece sono molto curioso, sai, alla fine non è molto difficile a Hollywood fare azione anche se non sei abituato, perché ci sono degli ottimi montatori, degli ottimi registi di seconda unità. Quello che mi incuriosisce tanto è come farà a infilare la roba sua in questa storia, con quella sua ottica per i personaggi, quel modo di vedere i dialoghi soprattutto. Era molto interessante. Ma essendo Thor comunque basato sulla mitologia, lui non è così. Non l'hanno scelto a caso, no. Cioè, non gli hanno affidato il primo che passava. Però se guardate i film americani, non c'è una sceneggiatura originale. Gulliver, un libro. Thor, un fumetto. Transformer, un sequel. Pirati dei Caraibi, il quarto film della sequel. Serie. Sì. Fast Five, non so cosa sia. Eh sì, è Fast and Furious 5, un sequel. Ah sì? Sì. E quindi un sequel. Sanctum 3D è l'unica cosa che originale su 6 film che insomma che potrebbero fare, insomma. Sì, è un momento storico questo dove i soggetti originali scarseggiano molto, però questo non necessariamente, io non sono d'accordo che questo vuol dire che manchi creatività, perché poi la fase di soggetto, cioè inventarti una storia che si può raccontare in 4 parole, questo è il soggetto, è il film in 4 parole, non è tutto il film. Alle volte guarda The Social Network, è un film che è tratto da un fatto vero, quindi non è una storia originale, però è un film scritto, di scrittura pazzesco, un film sceneggiato con un'abilità rara che probabilmente vincerà l'Oscar come miglior sceneggiatura, per cui non sempre. Però non è un soggetto originale. Certo, però non è un soggetto originale. Un bel soggetto originale americano quest'anno qual era? Inception. Esatto, bravo, ottima risposta. Inception era. Senti, sicuramente... prendi il suo posto. Che tra l'altro non è stato candidato agli Oscar come miglior regia. Esatto, assolutamente non lo è stato. Ma Inception è uscito. Ma io perché ti pago milioni e milioni di dollari? Per dire sì o no, lui avrebbe potuto sbagliare, ma io l'ho legittimato. Cioè, credo, uno è arrivato al mio livello di potere, anche di influenza. Si deve limitare a dire sì, giusto, no, sbagliato. Vabbè, i film che hai visto questa settimana non li hai visti perché stavi allora, male. Sì, allora no. In realtà io, credo, lottando con la febbre sono andato a vederli. No, ma non te li hanno portati a casa? Visto non potevi uscire. Uno come te. Sì, delle proiezioni private. Allora, diciamo... Goethe diceva che nella costruzione dei limiti si rivela il genio. Grande, grande. Questa è una straordinaria frase che potrei aver partorito io, ma non ho partorito io. Domanda tecnica per Gabriele. Ma quando vedi i film in 3D, usi gli occhialini che ti danno oppure davvero professionista dei tuoi personali. Allora, io ti giuro che ci avevo pensato. Avevo pensato, mi devo fare i miei personali, che arrivo al cinema e apro la 24 ore, capito? Tac tac, apro la 24 ore, li monto, cioè come i professionisti del biliardo, come che biliardo, si montano una stecca, esatto. Li monto e me li metto. La realtà è che sono due i problemi che mi sono posto di fronte a questo. Il primo è che ci sono tanti sistemi diversi, però io gli occhiali li possiedo tutti, di tutti i sistemi. Quindi diciamo a un certo punto c'ero arrivato a averli tutti. Il problema è che siccome li devi riconsegnare agli uscita, vai a spiegare che no, io questi me li ero portati da casa e ogni volta dovrei fare il pezzo. No, questi no, guardi che sono miei, non li devo restituire. Insomma, sarebbe un casino e l'ho buttato per chi se ne frega. Ma adesso scusa, non si buttano. Eh? Ci sono, non sono usa e getta che si buttano nei in cestini. Alcune sale, no. In altre no, in altre ancora si danno indietro. Sì. A me sembra che i film italiani recenti si reggano più sulla bravura degli attori che sulla qualità dei film. Angelo. Ma guarda, questa è una cosa che è sempre stata un po' vera. Cioè c'è sempre stata una tipologia di film che si reggevano molto sugli attori, specie se sono comici. Basta che pensi a Totò, no? È chiaro che quei film si reggevano su Totò. E questo accade tuttora nei film comici, quando un attore grosso, di un grosso calibro è coinvolto, contribuisce a scriversi le battute. Bisio, quando fa i film, contribuisce a scriversi le proprie battute. Lo si vede adesso in Femmine contro maschi, che è il film che esce questa settimana. C'è Claudio Bisio, c'è Luciano Littizzetto, che sono, per dire, due comici che scrivono anche. E vi accorgete subito che è il loro umorismo quello, cioè sono lo stesso tipo di battute che poi propongono in altri contesti. Per cui ma è una cosa della nostra tradizione, insomma. A me sembra che i film italiani recenti si reggano più, allora, questo abbiamo detto, io più che la rinascita del cinema parlerei di ulteriore regresso della cultura dello spettatore medio. Carlo, no, non è sempre vero. Bravo, anzi, Carlo, bravo Carlo. Non è era vero, non ora è vero che qualcuno dicesse le cose fuori dai denti. Anzi, proprio in questi giorni che stiamo trionfando all'estero con Io sono l'amore, il film italiano bellissimo con Tilda Swinton di Guadagnino, ha raccimolato nomination in tutte le principali manifestazioni e premi americani, non agli Oscar ma agli Screen Guild Awards, ai Golden Globe, a tutte queste manifestazioni. Sempre è stato nominato, sempre è stato considerato, insomma un trionfo incredibile per un film che noi per primi non abbiamo sponsorizzato perché siamo stupidi, perché avremmo potuto sbandierare molto di più e non l'abbiamo fatto. Ma notizie su Shantaram, cos'è? Shantan, adesso mi documento e ti faccio sapere. Senti, parla tu Livio, perché lui tanto... Oramai... tu guardi da una parte, lui sta cercando e giustamente inizio io a intrattenere il pubblico. No, ti volevo assumere come... al posto di Vasquez. Sì. Non ci sono notizie, come pensa, non ci sono notizie. Non ci sono aggiornamenti. Cos'è, un film, che è? Sì, è un film, ma non ci sono aggiornamenti in merito. Invece io avevo una notizia che ti volevo... Ma Benvenuti al Nord lo fanno o no? È pronto o no? No, è in lavorazione, ancora non se ne parla. È sicuro che si fa, ma ancora... Ma chi ci sarà, mai avevi detto? No, non te l'avevo detto, ancora non ci non sono. Non si sa? Vado a controllare, ma mi sembrava che il cast non fosse stato annunciato. Invece è annunciato, adesso lo diciamo, però vado a prenderti la data corretta. La data di uscita, sì, infatti 2012, Benvenuti al Nord, ma non c'è ancora il cast. La data di uscita di il film di Boris, la serie Boris, il film ci sarà, uscirà e... ancora dei postumi del 39, certo. Il primo aprile 2011 uscirà nelle sale il film di Boris. È una notizia che arriva in settimana, cioè la data d'uscita ufficiale. Boris cos'è? È una delle serie TV italiane più interessanti, più divertenti che sono uscite. È andata su Fox, il canale televisivo via satellite. Mai visto Boris? Non dalla ho la tua parabola. Espressione non ho una parabola, delle... non ho la fanno anche parabolica. Sul digitale terrestre, su cielo. Io non ho neanche la televisione. Sì, vabbè. Ho il monitor. Lo dico anch'io quando mi telefonano che mi chiedono Sky, no, ma lei vuole la televisione? Non ci credono monitor. Mai. Ormai internet vedi tutto, ma scusami. Anche su internet lo vedi. Boris, ma scusate, non è scappato. Ma c'è il problema Boris. Che è illegale. Cosa? Tutte le cose che si trovano su internet sono illegali, come fai? No, le guardo in diretta su dai, vabbè. Dai siti dei canali, sì. Li riguardo il giorno dopo quando li mettono streaming. Ah, certo, giusto. Capisci? Aspetti 24 ore, certo. Bene, giusto, giustissimo. Bene, come tutte le cose. Insomma sì, Boris è una serie televisiva molto amata, molto divertente. Qui è per dire come ti basti come idea del prestigio, cioè di quanto può essere. È una delle poche cose che ha fatto in questi anni, a cui ha scelto di partecipare in questi anni, Corrado Guzzanti, che ha centellinato tutte le sue apparizioni e ha fatto come guest star. È italiano? Sì, è una serie italiana prodotta da Sky. Esatto. Ma di che cosa parla? Scusate, racconta di una... Vivo in un altro mondo. Di una troupe televisiva, diciamo. Racconta di questa troupe televisiva che è coinvolta in produzioni televisive ignobili, tipicamente italiane. Gli occhi del cuore. Gli occhi del cuore, una cosa medica, una serie medica terribile, dove sono tutti cialtronissimi e incapaci, ma proprio che incapaci non gli va di fare niente, sostanzialmente. Molto romanesca, perché tutte le produzioni televisive poi sono fatte a Roma, per cui si basa. È centrata più o meno sulla figura di... Cioè, sono molti protagonisti, diciamo che Francesco Pannofino è uno dei principali. E per alcuni episodi c'è stato anche Corrado Guzzanti, perché la sorella Caterina è nel cast fisso e lui ha partecipato nella seconda serie, come esatto. il conte è un personaggio incredibile. E è anche il suo, faceva anche il suo agente a un certo punto. è vero. Ma... E, insomma, non sarà nel film Corrado Guzzanti, ma è garanzia di qualità. Bene, ma vediamo ai film che usciranno questa settimana. Questa settimana l'abbiamo annunciato, esce Femmine contro Maschi. Cos'è Femmine contro Maschi? È non il sequel, ma come l'ha definito il regista Fausto Brizzi, lo spin-off di Maschi contro Femmine. Due mesi fa è uscito Maschi contro Femmine e Brizzi, che tutto gli si può dire nella vita, tutto veramente gli si potrà dire, ma mai... Addirittura tutto. No, per dire, è un modo di dire. Ma mai nessuno gli potrà dire che non è lungimirante e che non ha l'occhio da grande produttore, anche se non è un produttore, ma ha l'occhio del produttore. Ha avuto quest'idea di girare due film insieme, che girare due film insieme, lo insegnano gli americani, conviene tantissimo, abbatti le spese e raddoppi i guadagni. E ha fatto Maschi contro Femmine, Femmine contro Maschi. Ha preso un grande cast, molto molto grande, l'ha diviso in due e ha deciso nel primo film... Dici voi 8, anzi voi 6 siete protagonisti e voi 6 siete comprimari. Nel secondo scambiamo, quei 6 che erano comprimari diventano protagonisti e voi Così abbiamo due film con 12 grandi attori. Per grandi attori intendo da Bisio a Paola Cortellesi, da Sol Frizzi a Luciana Littizzetto, Ficarra e Picone, ce ne sono moltissimi, Fabio De Luigi. E con l'incasso del primo stimoliamo a venire al secondo. Insomma è tutto un circolo virtuoso pazzesco. È un'operazione Ma lui li ha girati tutti e due insieme? Tutti insieme, ma le scene mischiate anche proprio. Cioè poi chiaramente c'è una segretaria d'edizione che tiene il conto di chi è cosa e dov'è, certo. Però per risparmiare, se abbiamo, che ne so, abbiamo una location di questa casa, in questa casa, in questi 4 giorni, 5 giorni in cui siamo qui, facciamo tutto quello che verrà girato in questa casa, primo o secondo film, non importa. Mamma mia, una cosa, un puzzle. Esatto, è una cosa usuale che si giri così, però girarne due è ancora più lungimirante, come Peter Jackson che girò Il Signore degli Anelli, 3 film tutti insieme, conviene. Tutti, cioè abbiamo i costumi, certo, tutti insieme, trucchi tutti insieme, facciamo tutto insieme e poi montiamo per bene separato. Non ne farà più dei Signori degli Anelli, vero? No, c'è cioè l'Hobbit. Cioè, e fa lui? Esatto, cioè dopo lui. 50 cambi di regista alla fine lo faccio essere, io. Doveva essere Guillermo del Toro, dovevano essere mille altri. E alla fine invece sarà Peter Jackson. La gioia dei fan sarà Peter Jackson, che ha detto adesso basta, mi avete rotto, lo faccio io. Quindi partirà e quindi si vedrà tra un paio d'anni. Beh, non mi ricordo più qual è la data d'uscita, ma mi sa che non è 2012. È ancora 2012, che è sicuro, secondo me la pospongono. Non parlare sopra il grande critico, per favore. Sì, al momento è ancora 2012. Io ho la convinzione che poi si scalerà al 2013, perché solitamente queste produzioni che cominciano così problematiche finiscono ancora sarà peggio. 3D? Però al momento... Sarà 3D, non si sa. Non si sa ancora, però sicuramente non ha cominciato a girarlo in 3D, quindi semmai lo produrranno in 3D. Però conoscendo Peter Jackson, se lo fa bene. Non è di quelli che tirano via, assolutamente. Non è tipo... Vabbè, insomma, ti è piaciuto questo Maschi contro Femmine o no? Allora, questo Maschi contro Femmine com'è? Innanzitutto, e qui parlo a chi ha visto Maschi contro Femmine, a chi ha visto l'altro, è più divertente dell'altro, secondo me, che è già un passo in avanti. L'altro a me non era piaciuto. Continua a esserci, però, un modo di raccontare storie che a me non piace. In che senso? Fausto Brizzi, oltre ad essere un grande economista, è anche un bravissimo soggettista. Cioè, parlavamo prima delle storie originali, no? Storie originali contro storie che già esistono. Ecco, Brizzi si inventa delle storie molto interessanti, molto divertenti. Anche in Femmine contro Maschi ci sono 4 filoni diversi. Uno sono Ficarra e Picone, che sono... due Beatlemaniaci, appassionati dei Beatles, che hanno un gruppo in cui fanno tutte le cover dei Beatles, partecipano ai contest e hanno difficoltà ognuno a conciliare questo fatto di avere questa grande passione con la propria ragazza, che invece la ritiene una cretinata. Invece la coppia formata da Luciana Littizzetto e Emilio Solfrizzi Il problema è che il mio Soffizi è un classico uomo deprecabile, cioè la tradisce, non le dà mai ascolto, si fa i fatti suoi, batte la testa, perde la memoria, e lei ha occasione di riprogrammarlo completamente, cioè di dirgli: ma no, tu in precedenza facevi sempre queste cose, mi preparavi da mangiare, mi facevi i massaggi, e quindi lo rimette a posto. Però l'intreccio vuole che lui a un certo punto cominci a farsi delle domande. E infine la coppia formata da Claudio Bisio e Nancy Brilli è una coppia di separati che però sta insieme, finge di stare ancora insieme, assieme anche ai figli, per compiacere la madre di Claudio Bisio, che è Vilma De Angelis, molto malata di cuore. E chiaramente l'espediente comico è perché per convincerla questa cosa, questa buccia diventa sempre più grande. Questi spunti però poi non trovano una sceneggiatura, non trovano dei dialoghi, una vivacità all'altezza, non vengono sviluppate in maniera davvero interessante, rimangono degli spunti molto carini che ti fanno pensare a cose che potrebbero essere e che poi non sono. Certo, gli attori e i comici più che altro coinvolti sono più divertenti degli altri e sono effettivamente la parte vincente del film, che poi si ride abbastanza. Però la cosa veramente fastidiosa è che tutto va a finire nel peggiore dello stereotipo, cioè il punto di arrivo del film, dove non di partenza, è proprio i maschi hanno il grembiule azzurro, le femmine il grembiule rosa, cioè i grandi luoghi comuni, e tutti quanti tendono a diventare quello, a diventare il proprio luogo comune e a confermarlo, che è una cosa fastidiosissima, specie se il luogo comune che viene applicato per le femmine è quello più degradante, cioè loro hanno sempre torto, alla fine avranno avuto sempre ragione gli uomini, che avranno fatto in alcuni casi avranno anche fatto bene a tradirle, proprio più totale disprezzo, che è brutto quando poi quando vedi che la parte femminile si adegua, perché che non dovrebbe essere così. Va bene, ci fermiamo per qualche istante, a tra poco, e torneremo con il cinema. Radio Rock e Prince Faster presentano domenica 13 febbraio dalle ore 16 al Reschic via Galvani 20 a Testaccio. Tre piani di musica e apericena. Questo è il programma dalle ore 16 al piano attico, gran salotto d'ascolto dove potrete godere la musica con i migliori impianti high-end analogici. Al piano terra, mercatino di vinile e CD. E al primo piano delle ore 19, grande apericena, proposte culinarie dello chef del Reschic. Nella stessa sala, durante e dopo la apericena, due mini concerti dal vivo e selezioni musicali ad hoc fino alla mezzanotte. Alta fedeltà, apericena e musica. Domenica 13 febbraio dalle ore 16, si mangia e si beve con Swing. Al Reschic, via Galvani 20, a Testaccio. Oggi vi parlo di sesso, ma poi più che altro tra la differenza tra adesso continua maiale. Ragazzi, io non ho ancora mangiato, ho una fame, ho anche una sete. Sì, cavada che quando c'hai fame c'hai pure sete, cavada, ammazza, oh. Ma che ti sei mangiato, il pane con lo stucco? Vabbè, andiamo avanti, va. E allora, giovedì 10 febbraio, serata del Radio Rock Light Club. Nella sala Carbonella, al piano di sotto, la discoteca Happy Trash Revival Dance anni 90 Italia Style con DJ Oreste e DJ Anto. Sali sopra. Nella sala Carcarazza, al piano di mezzo, Radio Rock e Ritual The Club presentano Distortion, speciale after show Covenant con i DJs from Ritual The Club. Sali ancora su, nella sala Pignatta al piano di sopra, Covenant il concerto, a seguire la Mecinoteca Pezzata con DJ Armandino. E per finire, nella saletta Acquario all'interno della sala Pignatta al piano di sopra, la discoteca Metal, New Metal, Hardcore e Metal Hardcore con DJ Noised. Video proiezioni a cura di Video Solid. L'ingresso è gratis per tutti fino a mezzanotte, dopo 7 euro. Quindi giovedì 10 febbraio, serata del Radio Rock Light Club, al Club via di Portonaccio 212 a Roma. Un grande saluto, ciao, e fate casino, ciao. Siamo di nuovo qui per parlare di cinema con Gabriele Vasquez e Livio, che fa da sparring partner, da pungolo. Allora, i film. Quali altri film hai visto? Allora, quali film consigli? Un consiglio. Questo è un film, consiglio questo. Allora, uno che sia uno. Allora, Questa settimana esce uno forse dei più bei film dell'anno, sicuramente. Se mi guardo indietro e penso all'anno passato, sicuramente questo film che esce è un film, chiaramente ve lo dico subito, adesso vi racconto in due parole la trama, è un film per gente che ama questo tipo di cinema, eh? Non sarà un film dai grandi incassi. Il Gregge di Cuneo? Non quel tipo di via. Allora, è un film che ho visto l'anno scorso a Cannes. Ah, Cannes, ancora c'è campo. Ah, sei stato a Cannes tu? Sono stato a Cannes. Ma ci rimanderanno quest'anno? Ma quest'anno ho scelto di non andare. Non vai? Cioè, sono stato, ho visto. Va bene. Poi io faccio un anno sì, un anno no. Ma vai a Hollywood? No, lì sono volgari. Quest'anno forse andrò alla festa del cinema di Roma. Progettando. Bravo. Allora, parlo di Another Year. Another Year è il nuovo film di Mike Leigh. Mike Leigh è probabilmente il più grande regista inglese in attività. È il regista, per dire, di Topsy Turvy, di Segreti e Bugie, del Segreto di Vera Drake, di La Felicità Porta Fortuna, che se non sbaglio è l'ultimo film che è stato distribuito in Italia. E questo Another Year, che vuol dire un altro anno, è veramente un film sorprendente, che riesce a fare un lavoro pazzesco. Perché è bello? Perché mi ha colpito tanto? Perché mi è rimasto così impresso? Perché è un film che, raccontando di alcuni amici di più o meno 50 anni, e l'età è importante che si racconti di persone così mature, riesce a far partecipare lo spettatore di una vicenda umana che purtroppo non posso anticiparvi, non posso dirvi molto, e di un personaggio in particolare che è veramente incredibile per il coinvolgimento. Non succede nulla di particolare in questo film, ma si rimane veramente veramente coinvolti. E questo perché Mike Leigh gira i film, li scrive, li gira in una maniera unica. Cioè, lui ha un suo metodo molto particolare che ha affinato negli anni, per cui porta tutta la truppa, attori, soprattutto gli attori, in un luogo, si chiudono in questo luogo, cioè stanno un mese fuori, lontano dalla città, lontano da tutto, e non fanno altro che provare, come fossero a teatro continuamente, anche se poi i film non sono teatrali, però quel tipo di metodo di lavoro. E questo genera una sceneggiatura anticonvenzionale, che è frutto di prove e non di scrittura, genera un affiatamento che è fuori dal normale, e poi delle performance attoriali assolutamente incredibili. È un metodo che lui ha messo a punto e che è suo esclusivo, che rende i suoi film così unici, e che, come spesso capita, questo è anche il caso di Matteo Garrone, che ha tutto un metodo tutto suo, diverso dagli altri, dà poi dei risultati diversi dagli altri. Per cui io per questo vi consiglio Another Year, che è un film bellissimo, anche se avrete capito, non per tutti, non un film dai grandi incassi, non un film, ma un film estremamente toccante. Come gli Agents del futuro che ho trasmesso io e che a lui non piacciono. Per pochi. Come il buon vino, per pochi. Mamma. Ah, sì, vabbè, finiamola così. Andiamo a dire che se non piacciono non si capisce niente, dai. L'elitismo. La tauromachia. Beautiful è l'unico film di questa settimana che non ho visto. Ecco. E sai perché? Perché sono stato male. Ecco. I fantastici viaggi di Gulliver. L'ho visto. Com'è? Allora, è bello. Un film. Allora, l'hai visto in 3D? Sì, tutto, sì a tutte le risposte. Allora, è un film. Posso andare stasera? Aspetta. Vado, mi ci reco. Indirizzato ad un pubblico preadolescenziale. Questo è il target. Quindi è il mio. Ci rientri. Quindi, è il mio. Quindi ti divertirai. Bene. È molto molto carino, veramente sono rimasto stupito, perché pensavo che non sarebbe stato all'altezza, invece è molto carino, molto divertente. E chiaramente, come sapete, come avrete capito, si chiama I Fantastici Viaggi di Gulliver, è I Viaggi di Gulliver, o meglio, non è I Viaggi di Gulliver, perché poi di tutti i viaggi di Gulliver che abbiamo visto al cinema, praticamente nessuno era veramente il libro di Swift. Sono, come sempre capita, è solo la prima parte, cioè i Lilliputiani, e non anche gli altri viaggi. E poi neanche la parte sui Lilliputiani è veramente trasposta con onestà. Però non importa, ormai i viaggi di Gulliver sono un grandissimo topos narrativo, cioè il grande e il piccolo. Questa è la cosa veramente affascinante dei viaggi di Gulliver, che una persona che nel suo paese è normale, gli capita quello che è tipico del cinema americano, cioè si trova in una landa inesplorata, no? È come Avatar, vai in un mondo nuovo in cui tutto è possibile, perché tu sei più grande, in cui sei potente, in cui è tutto da esplorare e hai mille possibilità inedite. Questo è il grande fascino dei viaggi di Gulliver che ogni film ripropone. Qui in questo film in particolare Gulliver e Jack Black, quindi è il suo personaggio e quindi no, racconta la storia di Guerre Stellari fingendo che sia la sua storia personale, la sua vita, gli racconta tutte queste cretinate e che è il segreto del divertente. E il 3D è usato in maniera nonostante sia post prodotto, quindi non veramente filmato in 3D ma aggiunto dopo, però usato con intelligenza per rendere la distanza, cioè è molto forte quando il piccolo guarda il grande e il grande guarda il piccolo, per rendere questa lontananza. E poi il film ha un pregio incredibile: dura pochissimo, sono 80 minuti, bello, secco, complesso, scompresso, veloce, proprio ha tutte le caratteristiche più ammirabili. Ah, tu sei uno da film è meglio breve ma intenso. Ah, io i film di 90 minuti li adoro. Ma fino all'altro anno, ricordi, o due anni fa parlavamo di film lunghissimi. Verissimo, la tendenza del grande film americano, ancora la maggior parte sono molto lunghi, però si cominciano finalmente a rivedere anche quelli molto corti, che era un classico degli anni 50-40, i film da 80 minuti, 90 minuti, specie di serie B. Ma io penso che sia fatto solo per far sì che ci siano più proiezioni. Metti mezz'ora in più, con tre proiezioni sei giocato una proiezione. Altri film, Vasquez, per la prossima settimana? Questa settimana sono usciti questi film. Questa robetta qui. Settimana scorsa, ve lo segnalo, anche se praticamente non è più nelle sale, perché è uscito in tre sale in tutta Italia, quelle cose così, è uscito il film di Yattaman, un film incredibile. Ecco, se me potete... lo chiedevano pochi istanti. Sì, è un film assurdo, a fine di Yattaman, ve lo dico, come giusto che sia. Io me lo sono perso, quindi. Non lo sapevo e me lo sono perso. Esatto. Tu non sei venuto venerdì scorso, non me lo hai detto. Consolatevi, a Roma non è uscito. Ah, ecco. Cosa incredibile. Comunque, è uscito da talmente tanto tempo in giro per il mondo che sicuramente qualche sito a pagamento lo avrà. Come Kick-Ass. Esatto. Allora, cos'è il film di Yattaman? È esattamente quello che vi immaginate, il film dalla serie a cartoni animati. È diretto da un pazzo, cioè Takashi Miike, un regista noto soprattutto per i suoi film, per il suo gore, per i suoi film splatter, duri, un regista di violenza, che ha fatto questo film con uno spiccato senso comico, ma soprattutto con un'ottica perversa, di perversione sessuale, senza intenderla in maniera negativa, e non voglio essere bacchettone, però quello è. Vi faccio un esempio: quando i protagonisti cattivi, che poi chiaramente i tre cattivi sono i tre protagonisti veri, non sono i due buoni, pensano a cosa faranno con tutti quei soldi, uno dei tre ha una fantasia incredibile, cioè si immagina sommerso da ragazzine. Più di... No, non ci arriva. No, quello pure Rocco Siffredi aveva detto no, come lui nessuno mai. Si immagina ricoperto di ragazzine liceali in divisa giapponese, mentre è tutto sormontato, e lui in questa montagna di ragazzine gli mette lo smalto sulle unghie dei piedi. Cosa di massimi livelli di perversione che abbiamo mai visto. Immagino sia Boiacchi. Esatto, che è Boiacchi, questo. Esatto. Ma c'è anche una lotta tra robot che finisce con un coito. Sono delle cose incredibili. E il bello di Miike è che vede questi personaggi da cartone come degli idioti, ma non solo i cattivi, anche i buoni, come dei veri cretini e dei ridicoli soprattutto. Cioè, in più di un momento si ha la sensazione che loro stessi abbiano il dubbio di essere dei ridicoli, il che rende il film anche metatestuale, cioè ti rendi conto che stai guardando un film. È una cosa veramente molto divertente, molto alta, perché Miike poi è una persona molto intelligente, per cui vi consiglio di recuperarlo con metodi purtroppo alternativi alla sala, però recuperatelo. Un bel film di Miike, 13 assassini, film che è passato a Venezia ed è un film straordinario. È il remake dei 7 samurai più 6, perché sono 13, quindi aggiunti altri 6. Bisogna aggiungere per far... Sì, perché in realtà poi è il remake di un altro film che faceva un remake dei 7 samurai. Che era i 3 samurai, i 13 assassini. 13 assassini, che... sì. Vai. Ed è questo film di Miike che non è ancora uscito in Italia, però è uscito in Giappone, quindi diciamo che all'estero qualcuno lo deve aver visto. Ed è passato al Festival di Venezia, motivo per il quale io l'ho visto. È un film veramente molto bello, molto sanguinario, chiaramente, perché Miike, questo è l'estetica della violenza, l'idea, anzi la filosofia della violenza di Miike, che si divide nettamente in una prima parte molto discorsiva, ma che non manca di fomentare gli animi, in cui si descrive la situazione, si richiede l'intervento di questi 13 samurai, e nettamente una seconda parte, quindi tutta la seconda metà, che è questo grandissimo scontro tra i 13 samurai e un intero esercito che dovranno combattere. Ed è fantastico, pieno di idee, pieno di trovate e con dei momenti mini che vedrai. Ne posso anticipare, guarda, solo uno, giusto per il piacere di anticiparlo, tanto non è verso la fine, non è nulla di cruciale. Per convincere il chiaramente questi 13 samurai, come capita anche nei 7 samurai, ne hanno uno principale, cioè ne hanno uno che è il capo, è quello che li guida, quello che li unisce e quello che prende delle decisioni. Per convincere questo grande samurai a combattere questa guerra, a confrontarsi contro questo signore locale, lo portano in un villaggio e gli fanno vedere una vittima di questo sanguinario. Ed è una donna avvolta in un kimono. Le levano il kimono e si scopre questa donna che non ha gli arti, cioè gli mancano entrambe le braccia e entrambe le gambe, perché gli sono state staccate di netto da questo pazzo sanguinario. E già questa immagine è molto forte, di questa donna nuda, senza arti, che rantola. Già si vede poi nel controcampo, si vede il capo dei samurai che ne rimane molto colpito. A un certo punto allungano a questa donna anche un foglio e un grande pennello di quelli giapponesi per scrivere, perché lei vuole dirgli qualcosa, però non ha la lingua, perché questo qui gli ha anche strappato la lingua, il che rende la cosa ancora peggiore. E lei su questo foglio, impugnando il pennello con la bocca, traccia un ideogramma giapponese, un grande ideogramma giapponese. Lo prendono, lo mostrano a questo samurai che gli aveva fatto la domanda: cosa vuoi che faccia io, cosa posso fare per te? E lei gli dice semplicemente, in questo ideogramma, gli dice solamente distruzione totale. E lì chiaramente parte la musica e comincia, lui si rende conto che dovrà contrastare il grande signore locale. Intanto Faster, vedo che hai messo un trailer. È un trailer hai messo. Diciamo che in tempo reale Faster ha trovato il trailer di Yattaman. Trailer esteso di Yattaman. Tra l'altro è questo trailer, che è legale, è su quella piattaforma illegale che mi hanno detto si chiama Megavideo. Esatto. E quindi Yattaman, come dicevo, usciva settimana scorsa, e settimana scorsa usciva anche Parto col Folle, che è il nuovo film del regista di Una Notte da Leoni, ma ve lo dico subito, non è a livello di Una Notte da Leoni. No, non è così divertente. Non è così divertente, lo promuovono chiaramente, perché mica sono cretini, lo promuovono come il seguito di Una Notte da Leoni, non lo è. C'è lo stesso attore, quell'attore con la barba che si chiama Zach Galifianakis, che era la parte più divertente di Una Notte da Leoni, e c'è Robert Downey Jr. È un po' un finto remake, comunque segue la linea di Un biglietto in due. Un biglietto per due, è vero. Esatto, con John Candy e Steve Martin. Anche un paio di citazioni precise, esatto, nelle scene in auto. Che è il grande classico del preciso, dell'uomo comune che si trova costretto a fare un viaggio con uno scemo anche rompiscato, uno che gli combina mille disastri e gli rovina il viaggio e potenzialmente anche la vita se dovesse continuare a fare così. Tant'è che in italiano l'abbiamo tradotto Parto col Folle, da che il titolo italiano, il titolo originale era Due Date. È un film sostanzialmente divertente, ma insomma non aspettatevi assolutamente di trovare quell'umorismo devastante che c'era. È intermittente, sì. In alcuni momenti è molto divertente, però ci sono dei tempi morti. Non trova quella. Una Notte da Leoni aveva non solo una serie di battute particolarmente felici, molto bello, lungo. E quello esteso, quasi non c'è bisogno di vedere il film dopo aver visto questo trailer. Notte da Leoni aveva quel meccanismo incredibile che scatenava sia la fantasia dello spettatore che no, quella ricostruzione del passato. Il non sapere che cosa fosse successo. Era in sé un viaggio, era un modo finto per mascherare l'on the road, perché poi è un viaggio che loro compiono, e poi ti fa sempre immaginare che deve essere successo, perché poi quando incontrano queste persone gli indicano quello con gli occhiali e gli dicono: tu sei il più pazzo che io abbia mai visto nella mia vita. Sono dei momenti pazzeschi. Settimana scorsa è uscita anche un'altra cosa che non ho avuto modo di segnalarvi, ma vi avrei sicuramente segnalato perché vale la pena andarlo a vedere, che è Il discorso del re. Ve lo dico innanzitutto se volete essere, diciamo, sempre aggiornati e avere degli argomenti di cui discutere nei salotti buoni, vi posso consigliare Il discorso del re, perché è un film che sicuramente figurerà molto bene all'imminente cerimonia degli Oscar. Gli Oscar saranno il 27 febbraio e il discorso del re già racciumato tantissime nomination, e per il tipo di film che è, qualcosa vince sicuro. Beh, l'hanno sarà... fatto, sembra fatto apposta per vincere il premio, perché quando lo presentano poi vincitore del premio Oscar, nominato al premio Oscar, esatto, cioè... esatto, esatto. Non solo, vi posso anche dire che è uno di quei film che vi piace sicuro, cioè per vi piace sicuro intendo è anche fatto a misura di gradimento dello spettatore, è un film che ti viene molto incontro. Oh, lo dico subito, è un film fatto molto bene, veramente ha dei valori tecnici, della bravura, ma a livelli pazzeschi in tutti i comparti. Ha due Colin attori Firth straordinari, Colin Firth che fa un ruolo che dovrebbe fruttargli quasi sicuramente la statuetta come miglior attore, c'è Jeffrey Rush che ha le physique du rôle del grande insegnante dai metodi anticonvenzionali che tira fuori il grande uomo. C'è la grande storia, perché è una storia che riguarda re Giorgio VI, cioè il re che salì al trono in Inghilterra durante la seconda, poco prima della seconda guerra mondiale, e è fatto molto bene, vi dicevo, ed è anche un film che viene molto incontro allo spettatore, cioè è una storia scaldacuore in fondo, è una storia che vi lascia con ottimismo, è una storia in cui alla fine viene da pensare che grand'uomo il re, che per carità non è questione di propaganda, ma è questione di fare un bel racconto piacevole, e il discorso del re lo fa con grandissima abilità. Un po' di domande, per caso vai a Cannes? Quest'anno non credo. Ieri aveva a pranzo il distributore di Yattaman, se volete facciamo una proiezione a Roma, Luigi. Potrebbe essere una buona idea. A proposito del Giappone, sapete qualcosa di Tokyo Blues? Mi vado subito a documentare. Però una bella idea, una proiezione a Roma per Radio Rock di Yattaman. Secondo me dovremmo buttare la gente a calci fuori. Perché... Una ventina di persone la faremo. Vabbè. No, Tokyo Blues nessuna informazione purtroppo. Allora, i film più belli non vengono mai neanche distribuiti in Italia. Le fiction TV spopolano mentre i gusti del pubblico regrediscono. Cioè, esageriamo. Ma io facciamo dei casi. Mi trovo d'accordo. Io non tanto, perché comunque sia quando esce il prodotto fatto bene, poi le persone lo guardano. Un esempio per tutti, e lo fanno tutti ultimamente, è Il Romanzo Criminale, la serie, che è ben scritta, ben girata, ben recitata, e l'hanno guardato tutti. È un caso su un milione. Ma perché ce le propongono le cose però brutte? Però tu non hai visto Boris, attenzione. Non hai ancora visto guarda, Boris. E tra l'altro c'è uno degli attori di Romanzo Criminale, quello che interpreta il bufalo nel Romanzo Criminale. È uno degli autori che non fa guarda, niente. Stasera non posso, ma domenica me lo cerco. Prenditi qualche ora, perché soprattutto la prima serie gli episodi sono brevi, di 20 minuti. Tu pensi, adesso me ne guardo uno o due. È capace che se hai 5-6 ore ti guardi tutta la prima tutta la serie insieme. Domenica con calma. Se no sabato, perché il sabato sera non esco quasi mai. Conduci un'esistenza riservata. No, esco gli altri giorni. Il sabato me ne sto a casa. Perché c'è gente. Troppa gente. Bravo, apprezzo. Vai nei posti e c'è gente, vai nella e c'è gente. Cucinano male e ti servono tardi. Ti servono è tardi. Vero. Io esco lunedì, martedì, mercoledì, massimo giovedì. Il giovedì, massimo. Esce 4 volte a settimana. Max. La sera è una serata particolare, vabbè. Se no me ne vado a fare un torneuccio da qualche amico. Ah, ma Gabriele, io ho una domanda. Non sono riuscito ancora ad andarla a vedere, ed è il prossimo che ho segnato. Il nuovo di Clint, com'è? Allora, il nuovo di Clint, cioè Hereafter, a me non è piaciuto molto, devo dire. È, secondo me, un po' sottotono, per carità. Poi è chiaro che se sei un amante di Clint Eastwood, dell'ultimo Clint Eastwood, poi ritrovi molte delle cose che ti piace. Diciamo, c'è un modo di disegnare i personaggi bellissimo, alcune scene molto, molto belle. Però nel complesso non mi è sembrato assolutamente uno dei grandi. Io non sono un amante di Matt Damon, e trovo che questo suo esserci si fissato sia in questo che nel precedente, su Mandela. Mandela era proprio un film su commissione, non era un film personale. Questo è più personale, e secondo me in questo Matt Damon funziona di più. Però è proprio un film meno riuscito, decisamente. Mentre invece quel che è molto riuscito, parlavamo sempre con Livio poco prima, che tra poco uscirà, sta arrivando, è il Grinta. Ah, il Grinta. Ah, l'hai visto? L'ho visto. Ah, e ho rivisto per l'occasione anche il Grinta originale che avevo visto, però cioè, per fare un rinfresco fatto per bene. E meno male che l'ho fatto, perché ho notato una cosa che non avrei notato se non avessi rivisto da poco il Grinta di John Wayne, con John Wayne. Che non cioè, è bello, forse uno dei più brutti. No, non è assolutamente bellissimo, però è uno di quelli, diciamo, con la storia migliore. Cioè, ha una gran bella storia, questo fatto di questa bambina sì. che si rivolge a un sanguinario perché vuole vendetta. Molto stimolante. Le battute, molte delle battute sono praticamente le stesse. Cioè parte della sceneggiatura è presa a proprio macchia, sì, non pezzi interi, però a macchie sono molte battute sono le stesse. Quindi i Coen che hanno detto no, noi non l'abbiamo neanche mai visto, non è vero, molte battute sono uguali. Ci sono pochissime scene in più e diciamo che rispetto a John Wayne, Jeff Bridges è un po' più Jeff Bridges, cioè è un po' più Drugo le Boschi, è un po' più un rovinato, è un po' più un diciamo scacciato, spara e manca il bersaglio perché è ubriaco fracico. E però per il resto la storia è assolutamente ordinaria. Vedrete, manca il prologo ma c'è un epilogo, queste sono anche le differenze, e vedrete che c'è molta attenzione, è un vero western, è un vero vero west, non ci sono variazioni, cose strane dei Coen, west. Molta attenzione alla morte, è un film sulla morte, sul morire, su quanta gente, su questa violenza incredibile del West, come si morisse come niente, che è una cosa che i vecchi film non sottolineavano mai perché non era uso, non si faceva così, si ammazzavano magari 1000 persone ma l'inquadratura per dopo un era... motivo preciso e poi è come se ti ridimenticassi l'inquadratura, se la regia non ci insiste te lo dimentichi che è morto quell'indiano, mentre invece qua continuamente lui si guarda, si volta e c'è il cadavere, cadaveri che ha lasciato, cadaveri su cadaveri, molto interessante. Beh, mi sembra sia tutto. Noi ce ne andiamo senza un vero perché. Volevi parlare di televisione? C'è una cosa molto importante in televisione. Una cosa, in 7 giorni una. Pensa, una però quando te la dirò tu dirai hai ragione, Gabriele, avevi ragione. Le vale tutte. Meno male che mi hai interrotto e l'hai detta. Bene. Domenica. Tolgo la musica. Bravo. Domenica, ovvero dopodomani, alle 22:15. Quindi manco a un orario che voi dite. No, ma io sto in giro, sto a dormire. Su Rai 5, canale del quale io non conoscevo l'esistenza, non sapevo che fossero arrivati fino al 5, comunque su Rai 5 alle 22:15 di domenica, Stones in Exile. Cos'è Stones in Exile? È un documentario fatto l'anno scorso, fu presentato a Cannes, io ero a Cannes. Ah, tu eri a Cannes? Eri a Cannes l'anno scorso? Io ero a Cannes e ancora c'è campo. Ma vai a Cannes quest'anno? No. Un anno sì, un anno no. Stones in Exile è un documentario molto preciso, nuovo, con materiale totalmente inedito, su un momento preciso dei Rolling Stones, cioè quel momento in cui dovettero scappare dall'Inghilterra perché una serie di scelte fiscali sbagliate li rese bersaglio del fisco e rischiavano, se rimanevano in Inghilterra, di andare sotto, cioè di dover pagare più di quanto poi riuscissero effettivamente a guadagnare. Per cui all'epoca di Exile on Main Street presero baracche e burattini, tutto il circo che si portavano dietro, poi che non erano solo loro, erano una serie di gente che viveva a spese loro, portarono questo circo in Costa Azzurra, in un posto assurdo, in un villone di Keith Richards che non ti dico nemmeno, ed è tutto questo documentario su questa loro permanenza, è pieno di fotografie, di materiali. Ma un documentario girato con loro dell'epoca? Sono di foto, un documentario di foto. Ci sono voci, testimonianze, tutto quanto, però sono foto. Ah, di foto. Di foto. Però devo dire, alcune sono foto mai viste, molto interessanti. Poi sono talmente tante che testimoniano questa vita che conducevano quotidianamente in questa grande casa d'epoca. Perché poi in Costa Azzurra potete immaginarvi che tipo di case ci sono, che tipo di ville ci sono. E però loro facevano una vita da comune, chiaramente, assurda, in cui poi hanno fatto uno degli dischi migliori della loro carriera. Per cui è molto molto interessante, c'è molta musica come potete immaginare, anche perché è un documentario benedetto dai Rolling Stone. A Cannes l'ha presentato Mick Jagger in persona, che ottemperando al suo personaggio ha anche dichiarato: metà delle cose che vedo in queste foto non me le ricordo, questa cosa che era tenuto a dire per mantenere il proprio personaggio. E niente, comunque è una cosa, vi ripeto, è domenica su Rai 5 alle 22:15. Dimmi. Io stavo pensando, foto una villa in Costa Azzurra con tutto questo circo, nani, zoccole, ballerine strane. Mi ricorda qualche cosa, ma non mi ricordo però che cosa. grandi rockstar. Sì, le grandi andiamocene, rockstar. Grazie a tutti e a tutti, ci sentiamo se tutto va bene lunedì, stessa frequenza, stessa radio. Ricordatevi sempre che una pietra che rotola non raccoglie più sugo. Grazie Livio, grazie Basket. Per questo mi ricordo, ci vediamo sui podcast di Celluloide e Celluloide, ora anche su Facebook. Qua roba da matti. Io domani invece sarei qui dalle 15 alle 18. Ma tu trasmetti qui? Sì, ogni tanto. Ma veramente? Sì, vengo a rompere le scatole a Betta. Grazie, a lunedì vi lasciamo con Margus. Quanto lo pagate? Miliardi. Sa di tutto. Di cinema, di cucina. Ha un contratto multifunzione. O mi danno tutto. 1 milione o io vado a settimana o vado tutte le settimane al milionario di Jerry Scott. Grazie, ciao. Radio Rock presenta venerdì 18 febbraio 2011 Goblin in concerto, i tre quinti della formazione originale dal vivo a Roma. I Goblin dei fondatori Claudio Simonetti e Massimo Morante dopo più di 30 anni insieme di nuovo dal vivo all'Alfeus, via del Commercio 36. Apertura ore 21, inizio concerto ore 22. Biglietto in prevendita 20 euro più diritti di prevendita. Costo del biglietto l'asse.